ed egli se ne andava avanti facendo il profeta, finché giunse a Naioth di Rama. Anch'egli si tolse le vesti e fece il profeta davanti a Samuele, e cadde nudo per tutto quel giorno e tutta quella notte. Per questo si dice: perfino Saul è tra i profeti.